Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Accidenti, per dove sei passata? Ah, t'avviso, Albano, sono proprio di pessimo umore. Ah, tu? Io avevo intorno il cast del Padrino. Devi imparare a farci l'abitudine. Quei due non potevano che chiamarsi Ciccio. Ok, ti prego, mal di testa, va bene? Ehi, sei davvero di cattivo umore. Devi avere certamente le tue cose. Non ho affatto le mie cose. Cribbio, appena cade qualcosa fuori dell'ordinario, tu pensi immediatamente che abbia le mie cose. Dillo più forte, forse qualcuno non ha sentito. Buongiorno a voi, il grande Woody Allen alle prese con Diane Keaton, un po' nervosetta della serie Maneggiare con cura, ma se l'idea di un imbianchino inglese verrà brevettata, basterà uno sguardo agli uomini per capire che non è aria e soprattutto momento di fare allusioni e battute. L'idea di Carla Dorm è un bracciale che, sfruttando le variazioni di temperatura corporea, rileva gli sbalzi d'umore e avvisa quando la donna si trova in fase premestruale, quindi con un livello di irritabilità andante mosso. Il braccialetto, che l'inventore ha chiamato Help for Husband, potrebbe insomma suggerire agli uomini che si stanno avvicinando ad una zona ad alto rischio litigi. Insomma, uomo avvisato, mezzo salvato. Ma è vero, lo chiedo a voi, che noi donne siamo così intrattabili nei giorni che precedono il ciclo, nervose, irritabili, con le lacrime in tasca? Io non ne sono completamente convinta, ma apro subito la discussione. 800 24 00 24, i messaggi al 349 238 6666. Qui in studio con me Alessandra Faiella. Ciao Alessandra. Ciao a tutti. Attrice, scrittrice, autrice, tra l'altro, chi più ne ha più ne metta, donna. E questo soprattutto. Anche e donna spesso con la sindrome premestruale, perché poi col passare del tempo peggiora. Io ce l'ho tantissimo, sì sì. Ma poi il braccialetto dovrebbe essere, tu dici gli uomini che si avvicinano, ma chiunque si avvicina a una donna con la sindrome premestruale, solo gli uomini, anche, non so, cioè nel senso di partner, anche non so, insegnanti dei figli, piuttosto che panettieri, vigili urbani soprattutto. Vigili urbani. Io sono veramente minacciosa. Sono minacciosa, sono come Diane Keaton, anche se anch'io non sopporto che mi dicano devono venirti le tue cose, che poi cosa sono le tue cose, delle valigie? Prendo le mie cose, io guardo l'unico uomo che c'è qua, prendo le mie cose e torno da mia madre. Mie. Allora, questa voce è un uomo che non sono io, ma è Alessandro Pellizzari, vice caporedattore di Star Bene. Ciao Alessandro. Buongiorno, che ogni a tutti. Mese vieni a trovarci. Molto anche volentieri, tu con una cadenza poi mensile. Sì, ma poi voglio dire, quando ci sono questi temi e sono in minoranza, sono ancora più divertente. Ma che te capita quello che capita a tutti con tua moglie, ti capiterà che tu entri ignaro in casa, ciao cara come vai, lei che cosa vuoi, vai via, sono nervosa, mi devono venire le mie cose. Guarda, io sono un uomo fortunato perché lei non ha la sindrome premestruale, e ti dirò di più, come Nicoletta sai, io vivo in una redazione, sono l'unico uomo, sono tutte donne, e devo dire che statisticamente anche le mie colleghe sono belle tranquille, magari qualcuno un po' più tristanzola, sì, ecco. Allora, io... ma lo nascondono. Lo nascondono, eh? 800 24 00 24, se volete intervenire, una puntata aperta alle donne, alle amiche di Essere Benessere, ma anche alle vittime, eh? Quindi, se gli uomini... tra l'altro io volevo ricordare due libri di Alessandra Faiella che fanno sempre... Comodo. Autostimami, serve molto alle donne, a tutti, ma alle donne, a proposito di autostima, in questi giorni che precedono il ciclo, si tende ad essere un po' depresse, un po' giù, e quindi anche faccio schifo, non valgo niente, sono vecchia, sono grassa, cellulite, eccetera, eccetera. Però anche agli uomini io suggerirei anche l'altro libro, Toglimi quel piede dalla testa, per favore, perché a volte per evitare di litigare anche gli uomini, anche il nostro Alessandro Pellizzari, penso che si trova disposto a farsi mettere non proprio un piede sulla testa, ma magari, non so, il tacco. La punta? Il tacco mi piace di più. Il tacco è perché è un po' sadomaso. Allora, se gli uomini, sempre che questo braccialetto verrà commercializzato, al momento è tutto fermo, potranno magari farsi aiutare da questo braccialetto che cambia colore, le donne in rete si danno una mano e si raccontano e si confrontano. C'è chi lancia addirittura l'idea di gruppi di autoaiuto. Noi abbiamo fatto un giro in rete, siamo atterrati su un blog, mini racconti cinici di una donna in sindrome premestruale, e abbiamo così preso un breve estratto che mi faccio leggere da Alessandra Faiella, che, leggo subito, che così ti metto subito al lavoro. Mi fanno un po' ridere questi gruppi di autoaiuto, che immagino che uno entra: ciao, sono Katia, ho la sindrome premestruale, ciao Katia. Vabbè, comunque leggo. Ci sono giorni, uno o due al mese, in cui sento svuotata la mia esistenza. Sento di non avere la forza per affrontare la benché minima cosa. Sono attanagliata da un senso di solitudine incredibile. Non riesco ad avere nessun barlume di speranza, figuriamoci di ottimismo. Tutte le mie azioni e i miei pensieri li trovo inutili. Avrei solo voglia di mangiare e suicidarmi con barrette di cioccolate finocchiona. Se mi provo un vestito, in quei giorni so che mi starà da cane. Se decido di andare al cinema, so che vedrò un film orrendo. Se esco, so che mi annoierò. Se un uomo mi invita a uscire, so che se ne dimenticherà. 800 24 00 24, se vi riconoscete in questo mini racconto cinico, chiamateci, e se riconoscete la vostra compagna, chiamateci per voi. Intanto noi abbiamo chiamato il professor Vincenzo Natale, autore con il suo gruppo di una ricerca che fa proprio al caso nostro, è associato alla facoltà di psicologia all'Università di Bologna. La donna è mobile qual piuma al vento, muta d'accento e di pensiero, sempre una labile, leggiadro viso, fiato il riso e menzognero. La donna è mobile, l'umore della donna è mobile, ballerino ad alti e bassi, ma non è colpa nostra, tutta nostra. Non è detto che abbiamo siamo un brutto. Innocenti. Siamo abbastanza innocenti. Sono gli ormoni cattivi. Poi noi ci marciamo. Gli ormoni cattivi e cattivi. Lo chiediamo al professor Vincenzo Natale. Professore, colpa degli ormoni? Sì, buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, certamente gli ormoni hanno un ruolo importante. Possiamo negare la componente biologica. Noi abbiamo fatto diverse ricerche, soprattutto con donne che non lamentavano la sindrome premestruale, e abbiamo riscontrato delle variazioni significative del tono dell'umore. Tuttavia c'è anche l'aspetto cognitivo, insomma, più squisitamente psicologico. Certo. Sono state fatte alcune ricerche in cui hanno monitorato delle donne durante una fase del ciclo mestruale, e dopodiché hanno fatto ascoltare dei documentari a metà di queste donne sugli effetti del ciclo mestruale, e l'altra metà hanno fatto ascoltare invece dei documentari di natura scientifica, ma che non avevano nulla a che fare col ciclo mestruale. Hanno reintervistato queste donne 3 mesi dopo e hanno riscontrato che in quelle che avevano ascoltato tutte le spiegazioni su ciò che avviene durante il ciclo mestruale, la sintomatologia lamentata era aumentata. Quindi vuol dire che i condizionamenti... Certamente il sapere che il ciclo influisce sul tono a sua volta amplifica gli effetti degli ormoni, ecco. Che tra altre cose non sono tutti negativi, perché... Ecco, ci racconti lei che sa. Per esempio bisogna tenere presente che gli ormoni, sia gli estrogeni che il progesterone, sono degli ormoni che attivano il nostro sistema nervoso centrale e quindi, diciamo, potenziano alcune facoltà, come per esempio i processi di memoria, modulano molti processi di memoria, e si è visto che anche per esempio nelle donne in menopausa che fanno delle terapie sostitutive ormonali, l'associazione di estrogeni e progestinici migliora le prestazioni cognitive. Ecco, e dilla poco, io infatti no? Mi sento più intelligente sin dalla premestruale. Questo potrebbe anche spiegare perché le donne sono un po' più intelligenti degli uomini. Sì, in generale proprio, non solo durante la sindrome. E non solo una volta al mese, professore. E appunto, in generale. No, grazie perché l'ha detto lei. Professore, voi tra l'altro avete proprio nella ricerca avete visto che anche i sogni cambiano, vero? L'attività onirica durante la fase premestruale subisce un po' delle variazioni. Sì, ecco, proprio a questo proposito gli ormoni modulano tutta una serie, diciamo, di processi cognitivi, affettivi, emotivi. Noi in un'altra ricerca in cui abbiamo chiesto a un campione di donne di tenere un diario dei propri sogni, abbiamo visto che durante, diciamo, la fase ovulatoria c'è una predominanza di personaggi maschili e di interazioni, diciamo, amichevoli, mentre per esempio durante la fase premestruale c'è una sorta di inversione, cioè si bilanciano i personaggi maschili e femminili e le interazioni sono più frequentemente a carattere aggressivo, ecco. Quindi potremmo dire anche raccontateci i vostri sogni, eh? Sì, diciamo che comunque sì, l'attività onirica rispetta un po' quella che è la nostra vita diurna, per cui diciamo... Eh sì, ce la portiamo dietro. Ecco. Professor Natale, grazie per essere stato con noi. Lei la patisce la sindrome premestruale delle sue collaboratrici, delle sue colleghe? Non so se sia sposato o accompagnato. Sì, ecco. Direi che posso confermare quello che diceva l'unico maschio presente. Lei, vedo che lei ha voglia di andarsene. Come mai? No, però l'ultima nota, un tempo fa trovai un articolo dove è intitolato anche lui alle sue cose, dove è stato monitorato la variazione dell'umore anche negli uomini, sì, che avevano riscontrato una certa ciclicità. Ecco, studi anche loro per favore, professore. Sì, le diamo questo incarico, poi viene a raccontare e facciamo un'altra partita, un'altra puntata. Grazie al professor Natale per essere stato con noi. È verissima questa cosa dei sogni, eh? Io li faccio dei sogni nitidissimi prima nel ciclo premestruale, non so, tipo DiCaprio, sai, l'ultimo film di, sì, DiCaprio. Vedo queste cose che crollano. Io non sogno uomini, donne, sono delle catastrofi e devo chiedere alla mia psicanalista come si faccia delle domande e si dia delle risposte. E se volete fare delle domande o raccontare la vostra esperienza, 800 24 00 24, voi continuate a chiamarci, a scriverci, tra poco passeremo le vostre telefonate, ma intanto voglio salutare la dottoressa Isabella Neri, ginecologa, acupuntore dell'Università di Modena Reggio Emilia. Dottoressa, buongiorno. Buongiorno a lei. Dottoressa, umore variabile, ma anche sensazione di gonfiore, mal di testa, dolorini, è una sindrome, ci sono tanti piccoli, no, disturbi. Sì, diciamo che è una sindrome caratterizzata da diversi sintomi, dove irritabilità e labilità emotiva senz'altro la fanno da padrone, ma tuttavia sono presenti anche sintomi fisici veri e propri, quindi aumentata ritenzione idrica, sensazione di stanchezza, anche di mancanza di forze e anche una sensazione di perdita di controllo, insomma, no? Sono frequenti anche i piccoli incidenti domestici, tagliarsi, far cadere un bicchiere, insomma. Perché siamo un po' smagatelle. È una sindrome complessa. Ne parleremo, ma abbiamo Sergio da Torino che ci chiama al nostro numero verde. Buongiorno Sergio. Ciao, buongiorno. Io ho telefonato, non è che ho molte cose da dire. Comunque riconosco tutti i sintomi della mia compagna che prima hai citato. Sì. E come sopravvive? No, premestruale, ma anche durante proprio il ciclo. No, è più facile, più irritabile. Tra l'altro in questo momento lei so che mi sta ascoltando. Ma caccia quegli urli che dicevo? No, proprio quegli urli lì così no, però è sicuramente molto irascibile. Tante volte un po' scontrosa, è più facile, molto più facile litigare in quel momento, sì. E lei... questo è un messaggio trasversale, perché se la sta ascoltando, certo, è un appello a... Fai qualcosa, ma lei, prendi Sergio... delle gocce, dei calmanti. Lei, Sergio, che cosa fa? La seconda o... Ma ho capito di no, il sospiro. Spesso non ci riesco, Anzi, tante volte forse la irrito perché appunto gli dico: ah, ho capito, è proprio il tuo momento, il ciclo, no? Non l'ha chiamata, allora, almeno le tue cose. No, però dicono quelle frasi a volte gli uomini: vabbè, voi avete le mestruazioni e noi ci facciamo la barba tutti i giorni. Che cosa c'entra? Lei lo dice, questo l'ho sentito dire. No. Questo è bello. Voi avete le mestruazioni e noi ci facciamo. Allora Sergio, lei continui ad ascoltarci, perché oggi, anche prendendo spunto dall'articolo di Star Bene, daremo tanti consigli alle amiche all'ascolto e anche ai loro partner per vivere in pieno benessere, ecco, questi giorni che sono spesso un po' no. Grazie a Sergio. Alessandro, voi avete proprio dedicato un servizio, anche perché, come diceva la dottoressa prima, a parte il côté, diciamo, psicologico e di rapporto di coppia o anche di lavoro, se vogliamo, la sindrome premestrale si porta dietro a volte dei disturbi anche pesanti, il mal di testa, il gonfiore. Allora, uno dei suggerimenti che diamo, noi abbiamo puntato molto per questo sulle cure dolci, cioè sulla medicina alternativa. Mi fa piacere che la dottoressa sia un'esperta agopuntrice, perché è una sindrome, come dicevi tu, cioè non stiamo parlando di una malattia, però stiamo parlando di qualche cosa che si porta dietro tutta una serie di disturbi. Allora noi ci diciamo sempre: perché soffrire se si può, con l'aiutino, no, senza bisogno di strafare, riuscire a contenere la situazione? Uno dei modi per contenere la situazione, e si può fare anche in coppia, è fare esercizio fisico, perché l'esercizio fisico in quella fase fa molto bene, ha un effetto proprio sull'organismo, cioè rilascia endorfine, quindi, che sono degli oppioidi sostanzialmente, per cui potrebbe essere una buona idea quella di andare insieme a correre, non lo so, a meno che lei non si metta a farti lo sgambetto. Dottoressa Neri, abbiamo bisogno di lei. Esercizio fisico sicuramente, suggeriremo anche, ci aiutano anche le erbe, una dieta particolare, ma qua c'è da intendersi: come faccio a capire che ho i miei problemi sono legati alla sindrome premestruale? Perché non possiamo buttare tutto nel calderone. Molte ascoltatrici e molti ascoltatori mi scrivono: è un modo che hanno le donne per sfogarsi e per giustificare, si prendono queste sorte di tre o quattro giorni di spazio in cui possono mandare a quel paese. Beh, ecco. Guardi, per prima cosa, intanto nel corso degli anni sono stati proprio stilati dei criteri diagnostici per definire sindrome premestruale e la sua forma più grave, che è il disturbo disforico premestruale, che adesso accantonerei un attimo, sennò ci andiamo un po' a impelagare in problemi più seri. Ci sono proprio dei criteri diagnostici, quindi scomparsa entro il quarto giorno del flusso e non ricomparsa fino al tredicesimo dei sintomi. Presenza in assenza di terapie farmacologiche, ormonali, alcol, droghe, eccetera. Necessità che i sintomi si ripresentino in due cicli valutati in modo prospettico e, a mio avviso, molto importante anche il fatto che sia ben chiaro che non è l'esacerbazione di un disturbo che tu hai, ma compare ex novo lì. Mi spiego: io sono ansiosa, ho un disturbo depressivo, sto male durante tutto il mese e sto peggio in fase premestruale, ma quella non è la sindrome premestruale. Non so se mi sono spiegata. No, si è spiegata bene. E che cosa è, quindi? Non è la sindrome premestruale, noi però è altro, è l'esacerbazione di un disturbo, perché in quel momento sono più fragile, ma nella sindrome premestruale io per il resto del mio mese sto bene. Certo. Abbiamo Alberto da Treviso, un attimo prima dei mercati. Buongiorno Alberto. Buongiorno, io non ho sentito gli ultimi interventi, però avevo una domanda da porre. Sì. La mia compagna soffre di sindrome premestruale e mi riconosco, voglio dire, in tutte le reazioni sopra descritte. Mi è stato detto dell'efficacia del potassio per cercare di lenire, come si suole dire, queste reazioni aggressive. Quindi lei vuole una conferma, perché dice così: aiuto, la sistemo, la potassio. No, io come si suole dire, ho l'avviso, perché viene la voglia di cioccolata. Siccome lei non è golosa, quando comincia a mangiare la cioccolata io so già che siamo... Ma anche quando comincia a mordere tu lo capisci? No, lì io l'ho già capito, perché altrimenti va a finire male. Quindi là mi metto il caschetto e via. In quel periodo è via. E per fortuna che ci sono tanti straordinari da fare al lavoro. Intanto, dottoressa Neri, parleremo anche di queste voglie, ad esempio, che possono per alcune donne anticipare la sindrome premestruale. Ma serve il potassio? Allora, francamente non è tra forse il magnesio, i sali minerali sopportati dall'evidenza, c'è la vitamina B6, la vitamina E, il calcio e soprattutto il magnesio. Ecco. è questo che la fa un po' da padrone rispetto agli altri. Francamente di potassio non avevo mai sentito parlare. Invece, tanti hanno sentito parlare, hanno letto delle virtù del magnesio. Noi torneremo perché parleremo anche di erbe, di ginnastica, di relax, raccoglieremo naturalmente anche i vostri consigli. Che cosa fate? Io lo chiedo alle mie amiche, ma lo chiedo anche ai miei amici ascoltatori di Essere Benessere. 800 24 00 24, mercati, meteo e poi di nuovo insieme. Essere Benessere. Ti solleverò dai dolori, dai tuoi sbalzi d'umore, dalle ossessioni delle tue manie. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. E guarirai da tutte le malattie, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. A proposito, io avrò cura di te, dice Battiato. Qua si è aperta un po' una discussione tra i miei due ospiti, intanto che sentivamo le notizie del meteo, erano un po' distratti, perché due posizioni. Alessandro Pellizzari da uomo dice: se la donna ha in sindrome premestruale, è nervosa, irritabile, con le lacrime in tasca, l'uomo dovrebbe collaborare, dovrebbe mettere in atto delle situazioni positive. Beh, intanto non dirgli che io mi faccio la barba tutti i giorni, a parte che la barba può essere un piacere, però per esempio, non so, spezzare un po' la routine. Se lei ha molto da fare in casa, si va fuori a cena. Poi, per carità, è molto importante è quello che diceva Alessandra, cioè ci sono donne che hanno una componente chimica molto forte della sindrome premestruale, per cui la parte psicologica su cui lavorare non è tantissima. Se la parte psicologica è importante, allora lì forse possiamo fare qualcosa di buono. Sulla parte psicologica potrei dare dei consigli alle anche donne. Anche alle donne, dai, che sì. Poi sentiamo i consigli della dottoressa. Perché appunto Neri, nel libro che citavi, Toglimi quel piede dalla testa per favore, si parla appunto della comunicazione assertiva, cioè essere chiari. Siccome durante la sindrome premestruale acuiamo una sorta di tendenza classica femminile alla lamentela e al lagnume, posso dire lagnume. Mi piace di più che lagnosità, ecco, e che è però è una tendenza generica delle donne. Quindi, non so, quella tendenza per esempio al processo, tipo che gli fa il processo alle 3 di notte quando quello è distrutto, oppure la mattina appena sveglio con le borse sotto gli occhi, tipo, o mentre guarda la TV, che è peggio, con le borse sotto gli occhi tipo Samsonite, il fiato da pony, che poi che poi se non ti fa pena dovrebbe farti almeno schifo e quindi lasciarlo dove è. Invece no, si fa il processo perché tu non mi ami abbastanza, non mi dici mai che mi ami e non mi porti fuori a cena ed esci solo con i tuoi amici e vai a giocare a calcetto, e quando mi hai portato a cena è arrivato il filippino con le rose e tu hai detto no grazie non mi serve tanto me l'ha già data, eccetera eccetera. Allora consiglio alle donne, invece del lagnume, un po' di assertività, cioè parlare chiaro e esprimere i propri desideri. Sei d'accordo? Assolutamente. Tipo, e leggo che noi siamo un po' gnocchi, un po' decoccio. Parlateci chiaro, cosa volete? Cosa volete? Questo vale un po' per tutta la comunicazione. Tipo amore, come mi piacerebbe passare una serata romantica da soli io e te, è più efficace di pensi solo a lavorare, sono secoli che non usciamo insieme. Amore, sono molto stanca, mi dai una mano a lavare i piatti, è più efficace di tocca sempre fare tutto a me. Tesoro, mi piace quando mi tieni abbracciata e mi accarezzi dopo aver fatto l'amore, è meglio di ti addormenti subito come un cinghiale maremmano privo di sentimenti. Oh, dottoressa Neri, che è un classico. Veniamo da lei, qualche cosa. Mi sto facendo qualche risata, scusi. Beh, quello aiuta, no? Va bene sempre. Aiuta sempre quello. Ecco. Ma noi che cosa possiamo fare? Come per spegnere? Perché abbiamo visto, mi per piacerebbe spegnerci. Per spegnere un po' questa sintomatologia che si divide, c'è chi l'avverte più a livello emotivo e quindi la tristezza, questa autostima sotto i piedi, la voglia di piangere, l'irritabilità, c'è chi l'avverte più con sintomi fisici e quindi gonfiore, mal di testa, dolorini vari, sono a volte c'è l'uno e l'altro, è in parte uguale perché siamo capaci anche di avere tutte e due le il cose. Il gonfiore al seno a me piace. Anche a me. Dottoressa Neri, come ci si orienta? Sì, allora io mi toglierei un attimo da questo discorso della sindrome premestruale vissuta in coppia e mi sposterei proprio a ragionare sulla donna e sui consigli pratici, sì. Che vanno da consigli generici sull'alimentazione, in particolare un po' ridurre il consumo di alcol, caffeina, tabacco e anche un po' contrastare questa tendenza al consumo eccessivo di cioccolato, di cibi dolci, sì. Perché alla fine ti appaga o meglio, se c'è una parte positiva legata al fatto che questi cibi ti appagano, no? Sì. Psicologicamente, però poi se ne assumi troppi possono aumentare alcune sostanze che ti aumentano un po' l'irritabilità, te la peggiorano. Poi diminuire senz'altro il consumo di sale per ridurre la ritenzione idrica, integrare sali minerali, in particolare abbiamo visto calcio e magnesio, tu lo puoi fare sia con degli integratori che acquisti in farmacia, ma se ti riesce, meglio ancora, modificando un po' l'alimentazione, no? Sì. Quindi ci sono degli alimenti che in particolare contengono magnesio, adesso ne dico due per dire, perché piacciono molto a me, le banane, le albicocche secche, per dire, faccio un esempio banale. Che piacciono anche cercare a di dormire bene, perché comunque anche la carenza cronica ha dei problemi. Di quello lo dite sempre voi medici, dormite bene, è un serpente. Comunque anche a livello ormonale, Poi, se noi, a parte questi consigli sull'alimentazione, c'è il discorso importantissimo dell'attività fisica, sì, che mi sembra che sia già stato fatto, sì. E in particolare podismo, ciclismo, quindi queste tecniche con queste sport con uno sforzo prolungato, sì. E poi tutto il discorso delle tecniche di rilassamento. È questo. Quindi lo stretching, lo yoga, perché comunque l'aumento delle endorfine che è legato a tutte queste attività non ci può che venir bene. Se poi lei mi dice questi sono consigli generali di cose così, sì. Un po' naturali, se mi chiede anche sulla possibilità terapeutica, allora andiamo verso una supplementazione. Cioè, è chiaro che dipende anche dalla severità, no? Certo. Di questa sindrome, ecco, ci sono anche dei questionari che secondo me i medici dovrebbero cominciare, i miei colleghi dovrebbero cominciare a utilizzare più di frequente, in cui tu hai anche un indice di gravità e di severità. Certo. Se la gravità supera un certo livello. Diciamo, un certo livello, allora ci sono degli integratori che si sono dimostrati veramente molto molto efficaci. Vogliamo sapere quali. Ecco, l'agnocasto. Il famoso agnocasto. Vero. Io lo prendo in un composto omeopatico. Sì. E questo è, le dico, non sono 10 anni di studio quelli che ci sono, un pochino meno, però è una sostanza che è in grande, è oggetto di tantissimi studi anche di ottimo livello. Ecco, ne parlate anche voi di agnocasto su star sì, bene? Sì. Ecco. E se lo diamo anche agli uomini cosa succede? Noi diventano... Non lo sappiamo. Non lo sappiamo, possiamo prenderlo in coppia. Stavo per dire una cosa e un po' questo volgare. Direi che come livello di evidenza è il migliore. Poi c'è il ginkgo che ha un effetto specifico sulla mastodinia, e poi se vuole ce ne sono tanti altri, vabbè, calcio e magnesio mi sembra che ne abbiamo già parlato abbondantemente, sì. Perché poi tu puoi fare anche un discorso di dire qual è il mio sintomo, il sintomo predominante, allora se è la mastodinia puoi assumere il ginkgo, se invece tu hai un problema più legato ai sintomi psichici, alle emicranie, allora puoi assumere, magari ti conviene il magnesio. Ecco. Allora io dico alle mie ascoltatrici, raccontateci qual è il sintomo di questi giorni che vi dà più fastidio e proveremo a cucire un po' una cura naturale per voi. L'agopuntura che però è un po' a sé, se vuole poi. Ma parleremo anche di aghi, intanto 800 24 00 24, qual è la cosa che vi dà più fastidio se soffrite di sindrome premestruale? Alessandro, so che Noi ci siamo concentrati anche sull'insonnia, perché sì. Il dormire bene, come diceva la dottoressa, è fondamentale e sicuramente una notte non passata bene non aiuta il côté, diciamo, già negativo della sindrome premestruale. Infatti. Volevo chiedere, come vede in questo campo, sempre rimanendo nelle cure dolci, l'uso della melatonina? Lo consiglia? Perché no? Perché no? Sì. ci prendiamo anche non un po' di... Non ci sono tantissimi studi al riguardo, ma perché no, sì. Bisogna prenderla molto prima, perché faccia effetto rispetto ai giorni della sindrome, oppure no? In queste cose, in tutte queste terapie, anzi la ringrazio vivamente di questa precisazione, che riguardano un po' tutte le terapie di questo genere, bisogna agire un po' d'anticipo, perché non ci possiamo aspettare un effetto immediato. Quindi giocare d'anticipo già dopo, appena dopo l'ovulazione, la metà del mese, e iniziarle, senz'altro. Io voglio, intanto arrivano molti messaggi di ascoltatori che ci raccontano come sopravvivono la sindrome premestruale delle loro compagne. E Massimo ci ha mandato una mail a essere benessere@radio24.it e ci scrive: io e un mio amico siamo convinti di prenderci un camper e sparire per quei giorni, visto che hanno il ciclo nello stesso periodo. Quindi se ne vanno proprio. Sai, è variabile, eh? Non è che sempre sarà per tutta la vita così. Quindi... Se tornano prima. Se tornano prima sono... Intanto abbiamo Simona da Latina, buongiorno. Buongiorno a voi, innanzitutto grazie perché sto guidando e mi avete fatto più che sorridere, soprattutto all'inizio. Io ho tutti i sintomi, no? Della sindrome premestruale, quindi scarsa autostima, eccetera, eccetera, sì? Però c'è un però. Ho 64 anni, quindi non si può parlare di sindrome premestruale. No. Mi hanno detto di sindrome da premenopausa, da menopausa, da postmenopausa. Tra poco mi diranno da arteriosclerosi. Allora io mi rifiuto di pensare che io, la mia emotività sia gestita esclusivamente dagli ormoni, ma probabilmente è dovuto a qualche altra cosa, cioè... dalle donne si pretende troppo, che a volte si esplode perché non ci se la fa più, giusto? Grazie Simona, le daremo una risposta tra breve, intanto lei è in auto, noi andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade, a tra poco, buona giornata Simona. Essere e benessere. La nostra ascoltatrice ci ha fatto un po' preoccupare, perché insomma non finisce mai questa sindrome premestruale, forse non è sindrome premestruale, no, se continua e diventa premestruale. Diciamo che la sindrome premestruale, proprio perché è legata, lo dice la parola stessa, sì, no, a fluttuazioni ormonali o comunque ad alterazioni di quel tipo, ha molti aspetti in comune con dei sintomi sia premenopausali che climaterici, ecco. Insomma, questo è Newcastle, mi stanno scrivendo diverse ascoltatrici, come si può prendere? Perché la parola ci... Già sparato in vena anche. No, Newcastle devo dire che inizialmente era disponibile soltanto come tintura madre, granuli, preparati di tipo di erboristeria. Sì. Poi recentemente, ovviamente è chiaro che anche le ditte farmaceutiche si sono spinte un po' la produzione di queste sostanze, quindi è disponibile anche in compresse, insomma. Un farmaco, e si inizia sempre qualche giorno prima? Come... Ma no, noi lo facciamo usare per i primi mesi sempre, sa? Proprio per dare un po' così di perché è rischioso, comunque sono terapie naturali, quindi blande, non è sempre un po' il problema. Ci vuole un po' di tempo. Simonetta, certo. Da Roma. Buongiorno. Sì, dottoressa, passo Simonetta e poi torniamo da lei. Simonetta, buongiorno. Buongiorno, dottoressa. Gentilmente io volevo sapere, siccome soffro da quando sono ragazza, adesso compio 45 anni, di questa sindrome, purtroppo poi ho scoperto di avere un'endometriosi e quindi per me ogni volta è un trauma, cioè sì. Addirittura delle volte sono a casa. E ultimamente soffro di queste carenze, quelle che lei proprio accennava prima. Sonnolenza tantissima, e mi fanno male i muscoli delle gambe, sono le cremazioni agli occhi, cioè mi sento proprio completamente diversa, non mi succede più come prima, che ero bella forte. resisteva ai dolori, insomma tutti questi. Adesso no, sembra proprio che sono carente di tutto, me lo sento addosso. Quindi... Dottoressa Neri, è possibile in questi casi magari chiedere al proprio medico curante di fare qualche esame, di vedere se queste carenze che Simonetta ipotizza sono reali, per non prendere anche così vitamine integratori alla cieca, che alla fine poi... Ma insomma, se vuole, sì, oddio, un esame si può sempre fare, ecco, ma sono delle carenze anche temporanee, momentanee, che non so se si riescono a diagnosticare con un esame del sangue. Io più che altro qui consiglierei un'integrazione, ecco, a proposito di magnesio, sì. Questo sarebbe proprio, si possono anche associare, agnocasto e magnesio, per dire, o magnesio e calcio, vedrei proprio bene una supplementazione di questo tipo. Abbiamo Alessandra Faiella, che vedo che sì, sta trovando qualche altro spunto nel libro, per la pace della coppia. No, non c'entra la coppia, diciamo che si può generalizzare, perché sono dei consigli per difendersi dalle persone insopportabili e quindi anche da una donna, anche una collega in sindrome premestruale, con delle, diciamo, scappatoie, ma che sono proprio consigliate dagli psicologi, delle specie di strategie evitanti, tipo quindi anche per le donne, scusami, sono presissima, puoi passare più tardi? E devo consegnare questo lavoro entro stamattina, non ho tempo. Non ti ho richiamato perché ho perso l'agenda con tutti i numeri di telefono. Domani parto, la tua mail non mi è arrivata, non mi occupo di questa pratica, non sono più in questo riparto, sono già morto ma nessuno se n'è accorto. Queste sono strategie che possono servire. Per portare un pochino in là il discorso, per non avere subito lo scontro, Alessandro? Abbiamo altri suggerimenti, sì, no, da leggere su Starbene? Quello che ci ha dato come spunto l'ultima ascoltatrice, perché dobbiamo anche essere sicuri che la sindrome premestruale non sia connessa a qualche problema in più. Un classico potrebbe essere quello dell'ovaio policistico, per esempio. Infatti, se ha tutti questi sintomi, almeno così dicono i nostri esperti, si associa all'acne, i capelli grassi, allora vale la pena effettivamente di rivolgersi al ginecologo e capire se per caso non c'è un'associazione di questi due problemi, oppure è dominante un secondo. Dottoressa Neri, lei si pratica anche l'agopuntura. Gli aghi sono efficaci? Sì, no, ni? In alcuni casi solo? Possiamo consigliarli? Allora, Se vogliamo ragionare in termini stretti di evidenze scientifiche, i lavori non sono ancora così tanti, però c'è stata una ultima revisione della letteratura del 2009, mi sembra, sì. Del 2008, mi scusi, sì. Che ha messo in evidenza che l'agopuntura è efficace rispetto al trattamento farmacologico, ma anche alla fitoterapia e all'agopuntura, chiamiamola così, placebo, nel ridurre i sintomi premestruali. Quindi ci sono ottime evidenze al riguardo, ottime evidenze, e in generale non è difficile aspettarsi ciò da una medicina come l'agopuntura, che è tutta volta al riequilibrio del soggetto, insomma, adesso parlando in termini generali. Cicli di quante sedute? Cicli di almeno 8 sedute, 2-3 volte all'anno. Abbiamo Cristina, ci chiama da Milano. Buongiorno Cristina, benvenuta. Il nome è premestruale, poi ho continuato. Cristina, siamo in onda. È un anno che non ho più mestruazioni, ho continuato comunque a prendere. Ma sì, Cristina, scusi, ma noi abbiamo perso una prima parte, mi sente? Sapere se andava bene o sì. Meno, ecco, siccome è molto utilizzata in questo. Sì, purtroppo Cristina parla ma non mi sente. Cristina? Buongiorno, eccomi, sono Nicoletta, come sta? Buongiorno, senta, io sì. Mi chiamo Cristina, ho 54 sì. anni sì. e da un anno non ho più mestruazioni. Quindi 2 anni fa ho iniziato a prendere su suggerimento di una collega che si occupa di insomma, una giornalista che si occupa di queste cose, sì. Come un po' come lei, ecco, sì. Della melatonina. Sì, perché si chiede sempre all'amico dell'amico. La sta prendendo da un anno, Cristina? No, guardi, io lo sto prendendo praticamente da un anno e mezzo, perché sì. Da un anno sono entrata in menopausa. E la melatonina chiaramente è un sincronizzatore dei cicli fisiologici sì. Del corpo. Vediamo, no? La sua domanda cos'è? La mia domanda è questa. Allora, io ne sto prendendo una compressa, quindi praticamente da un anno e mezzo, da 200 mg, la timelatonina, no? Quella che contiene anche zinco e selenio. Sì. Volevo sapere, io prendo una compressa tutte le sere, volevo sapere se posso andare avanti, nel senso se... La sua amica su questo non si è pronunciata. Allora, no, noi abbiamo la dottoressa Neri, perché vediamo se la dottoressa Neri può pronunciarci. Dottoressa, ci sono degli studi che hanno valutato anche gli effetti della melatonina nel lungo periodo? Nello specifico della menopausa o in generale? Perché in generale sì, senz'altro, su invece melatonina e menopausa non ce ne sono, ma tutta questa produzione, ma tuttavia non credo che ci si possa aspettare, certo, effetti collaterali particolari, insomma. Posso dire una cosa? Allora, è giusto quello che dicevi tu, Nicoletta. Cioè, noi abbiamo la possibilità in farmacia, dove vogliamo, di acquistare quello che vogliamo. Per carità, si può anche provare. Però il messaggio è sempre nostro. Provate pure, però se non funziona vale veramente la pena di andare dal medico. Senza perché nulla togliere all'amica, eh? Perché i medici ci inquadrano e magari ci sistemano delle cose che noi pensiamo non c'entrino, tipo per esempio l'insonnia, che è un cotè che aggrava la, certo, situazione, e pigliamo con due con una fava due piccioni. Chiudiamo con così. Alessandra Faiella. Io volevo solo fare una domanda, a dire la verità, seria. Cioè, siccome l'insonnia è un circolo vizioso, perché quando i medici ti dicono devi dormire 8 ore, ho capito, ma se non riesco a dormire, allora come faccio? Cioè, fa bene dormire, ma se ho la sindrome premestruale non riesco a dormire. Brevemente, a parte la melatonina, ci sono è sconsigliato prendere dei farmaci chimici per l'insonnia? Dottoressa Neri, abbiamo veramente un non secondo. Abbiamo secondi praticamente, però ma, dica, guardi, sì o no. Lei parla con una ginecologa che ha fatto anni di agopuntura e di fitoterapia, quindi io provo sempre prima con cose naturali, anche perché non mi sento di avere il bagaglio culturale necessario per utilizzare ansiolitici o farmaci, certo, insomma, quindi ancora una volta vorrei spezzare una piccola lancia a favore dell'agopuntura. Adesso ci sono anche dei dispositivi che fanno agopressione, quindi sono tipo i braccialettini per la nausea. A proposito, i braccialettini, abbiamo iniziato con un braccialetto e chiudiamo con un braccialetto a questo punto. Io vorrei un braccialetto però di Cartier, non è che non ce l'avete qua. Quello serve per far passare il mandato. Ti alza l'autostima. Qua parlano, ma io vi aspetto domani. Grazie a voi, buona giornata. Essere e benessere.